Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi unse, mi inviò ad evangelizzare gli umili, a fasciare quelli dal cuore spezzato e proclamare la libertà ai deportati, la liberazione ai prigionieri, a proclamare un anno di grazia da parte del Signore, un giorno di vendetta da parte del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare loro un diadema invece di cenere, olio di letizia invece di un abito di lutto, lode invece di animo mesto. Si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per la sua gloria. Ricostruiranno le rovine antiche, rialzeranno i luoghi desolati del passato, restaureranno le città distrutte, desolate da generazioni. Stranieri verranno a pascolare i vostri greggi, figli di stranieri saranno vostri aratori e vostri vignaiuoli. E voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. Vi si chiamerà ministri del nostro Dio. Vi nutrirete della ricchezza delle nazioni, vi glorierete della loro pompa. Invece della vostra vergogna riceverete il doppio, invece della confusione esulterete di gioia. Nel vostro paese erediterete il doppio, vi sarà per voi una letizia eterna. Poiché io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina e il crimine, darò loro fedelmente la retribuzione e concluderò con essi un'alleanza perpetua. La loro progenie sarà conosciuta tra le nazioni e la loro discendenza tra i popoli. Tutti quelli che li vedranno li riconosceranno, perché essi sono una stirpe che il Signore ha benedetto. Esulterò grandemente nel Signore, e si rallegrerà l'anima mia nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza e mi ha ricoperto con il manto della giustizia, come uno sposo si mette un diadema e una sposa si adorna dei suoi gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germi ed il giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode di fronte a tutte le nazioni.